Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di un libro piccolo ma molto importante, molto denso, molto ricco di sollecitazioni e di spunti, e ne parliamo con l'autore, il professor Paolo Savona. Buonasera professor Savona. Buonasera Fabi. Che cos'è l'economia? Questo è il titolo di un libro che in questa edizione appunto compare per la terza volta con una nuova prefazione aggiornata, un libro che ha bisogno comunque di pochi aggiornamenti perché è una storia dell'economia, una storia che aiuta a comprendere sia le grandi scuole economiche che si sono confrontate nel corso dei secoli, sia i temi di fondo su cui l'economia si è fermata. Ecco, in fondo la domanda è possibile un'economia che possa prevedere il futuro, come si chiede molto spesso agli economisti, quasi se fossero degli indovini? È una domanda, direi, la prima domanda che faccio al professor Savona, molto ambiziosa. Certo, noi economisti abbiamo avuto la speranza di poter riuscire a prevedere, per certi versi, quando le cose sono andate un po' più calme, diciamo prima della caduta del muro di Berlino e le rivoluzioni geopolitiche che ne sono seguite, allora dopo una lunga ascesa del pensiero verso la capacità di prevedere il futuro, è iniziata una discesa tale per cui oggi la realtà non risponde più agli schemi teorici, e io spiego nel libro il perché. Innanzitutto perché esistono 19 scuole di pensiero, quindi ci sono 19 risposte, e da questo punto di vista il lettore comune, il cosiddetto uomo della strada, trova delle difficoltà ad orientarsi. Ma a parte queste diversità di interpretazione, la realtà è sorprendente, e oggi ci accorgiamo, sia per i problemi dell'Italia che dell'Europa che del mondo, che le emozioni sovrastano la razionalità, e siccome l'economia è la scienza della razionalità, naturalmente si trova di lato. Ecco, indubbiamente l'economia vuole essere la scienza della razionalità, però è una scienza che ha a che fare con le persone. Le persone sono razionali, almeno dicono di essere razionali, ma poi nelle loro scelte sono emotive, imprevedibili, arbitrarie e tante cose. Ecco, lei ha avuto una lunga esperienza, era tuttora come economista, adesso è professore emerito di politica economica, presidente del Fondo Interbancario, ha collaborato con Guido Carli e Paolo Baffi in Banca d'Italia. Ecco, è veramente cambiato il mondo negli ultimi anni rispetto agli anni passati, rispetto al secolo scorso? Guardi, la parola crisi viene dal greco e significa rottura del sistema, e quindi il sistema si è rotto, che è, direi, mi esprimo con lo stesso concetto di prima, in un termine sintetico che è la crisi. Naturalmente il discorso della razionalità ci sta sfuggendo di mano. I lavoratori, per esempio, che combattono per l'Ilva o per l'Alcoa in Sardegna, stanno seguendo un comportamento razionale che non rientra negli schemi dell'economia, ma non possiamo chiedere a loro di pensare in un modo diverso. Per cui la politica, che dovrebbe essere quella che fa la sintesi, non ce la fa più a seguire la realtà. Ecco, una realtà che comunque è una realtà che va compresa, va comunque interpretata, poi dopo le prospettive ognuno può darsene da sé. Lei conclude il libro dicendo che bisogna tener conto dei numeri per non dare i numeri in senso popolare, dico dare i numeri che si danno un po' a caso, quindi bisogna tener conto della realtà, studiarla fino in fondo, capire la realtà, ma poi affidarsi anche al fatto che l'economista deve dare delle indicazioni che sono e che possono essere razionali per i comportamenti delle persone, ma forse soprattutto dei politici. Appunto, l'economista deve essere ferma nel difendere la razionalità economica, come funziona il sistema, e deve dire come stanno le cose. Questo ovviamente non significa che egli pretenda poi che le cose vadano come lui le interpreta, però chi si distacca per un qualsiasi motivo, e parliamo proprio degli operai che in questo momento stanno attraversando vicende familiari drammatiche, alla fine devono rendere conto che inevitabilmente l'economia si comporta in un modo diverso dalle loro attese, e devono trovare un punto di contro. Se si va, come si sta andando, nelle piazze greche, nelle piazze spagnole, verso la violenza, i problemi non sono più controllabili. Per cui la conoscenza dell'economia e la posizione dell'economista è quella di spiegare esattamente come funzionano i meccanismi, piaccia o non piaccia. La concorrenza cinese a basso costo del lavoro ovviamente non ci piace, però esiste, e quindi se tu neghi questa realtà stai seguendo comportamenti che ti portano in un vicolo cieco, certo, cioè, privo di soluzione. Non possiamo dire se la realtà non segue i nostri principi, peggio per la realtà, perché poi comunque la realtà, quella che ha ragione, quella che poi alla fine ha una razionalità di fondo. Vorrei sottolineare una cosa, tornando un po' al percorso di questo libro, che come dicevo è un percorso storico, ricordo è la terza edizione di un libro, Che cos'è l'economia, in questa edizione edito da Mind Edizioni di Milano. Ecco, lei proprio sottolinea fin dalle prime righe come abbia avuto un ruolo anche quella che possiamo chiamare una scuola italiana di economisti, tanto che Cesare Beccaria viene definito lo Smith italiano, anche se Cesare Beccaria è passato alla storia per altri problemi, forse dimenticando appunto il suo apporto all'economia, così come sono stati economisti che hanno delineato appunto nella realtà italiana un'analisi dell'economia molto molto avanzata, sia nel Settecento sia nell'Ottocento. Ecco, questa perché l'Italia è rimasto un paese periferico, che questi economisti hanno avuto meno successo, possiamo dire così, di Smith o di Keynes? La realtà è diventata complessa. Gli italiani, non solo nel campo dell'economia, ma quasi in tutte le tecnologie, vantano un primato che altri non possono vantare. D'altronde il Rinascimento italiano è stato il punto di decollo del grande sviluppo del mondo. La realtà è che quando un paese non accetta quella severità che impone la competizione internazionale, praticamente si trova emarginato. Paul Valéry scrisse che non vi è niente di più fragile di una buona civiltà, come insegnano i greci, i romani e prima ancora gli egiziani e gli assiro-babilonesi. Quindi il discorso dell'adattamento di un popolo alla realtà che lo circonda diviene e oggi è il problema numero uno del nostro paese. Ecco, un problema insieme appunto a quello, tornando ancora all'inizio, poi al tema di fondo del suo libro, che è quello della razionalità. Lei conclude la sua prefazione scrivendo: la lotta tra la razionalità e l'irrazionalità è il più duro confronto al quale ho assistito nel corso della mia ormai lunga vita professionale. I progressi compiuti in direzione della razionalità sono stati e sono tuttora dagli esiti incerti. Ecco, è un po' un pessimismo della ragione questa prospettiva. Beh, anche della realtà purtroppo, non solo della ragione. Effettivamente la situazione nel mondo è diventata talmente complicata che oggi parlare di razionalità diventa molto difficile. Io penso che il grande progresso che c'è stato nel XX secolo, cioè iniziato anche nel XIX, il passaggio da sudditi a titolari di diritti e quindi praticamente essere governati da leggi e non da uomini, ha poi portato che gli uomini nei consessi democratici hanno deciso di distribuire il reddito in modo diverso dal mercato, hanno esagerato, si tratta di riportarci nell'ambito del mercato, un nuovo equilibrio tra welfare, tra stato del benessere e competizione internazionale. Questo equilibrio la politica non ce lo sta suggerendo ancora, almeno in Italia, ma un po' in tutti i paesi, perché gli Stati Uniti con Obama si trovano nella stessa, certo, conflitto tra realtà dei mercati e realtà del benessere sociale. Indubbiamente un'economia appunto che deve guardare la realtà non può distribuire, pretendere di distribuire dei redditi se questi redditi non ci sono, e così come dobbiamo convincerci che bisogna cercare di capire finché si può l'economia, perché se noi non ci occupiamo di economia, può essere una frase fatta, comunque l'economia si occupa di noi. Grazie professor Savona. Abbiamo parlato del libro Che cos'è l'economia, edito da Mind Editore, sono 112 pagine per 8,50 euro. Dopo aver parlato con Paolo Savona del libro Che cos'è l'economia, guardiamo a una realtà molto particolare dell'economia, ma molto importante soprattutto per i giovani, la realtà del precariato. È proprio precari, si titola il libro di Guy Standing, La nuova classe esplosiva. Guy Standing è docente di Economic Security all'Università di Bath in Inghilterra, ha lavorato presso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, è membro fondatore e copresidente del Basic Income Earth Network, organizzazione non governativa che promuove il reddito di cittadinanza. Ecco, Guy Standing ha scritto questo libro, La nuova classe esplosiva, edito dal Mulino, con una ottica molto precisa che è importante anche per osservare la realtà italiana, cioè il fatto che siamo di fronte non solo in Italia, infatti la prospettiva con cui guarda la realtà Standing è quella internazionale, quindi non solo in Italia, di un nuovo gruppo sociale di dimensioni mondiali, che è una una vera propria classe globale, una classe che forse in qualche modo si sostituisce alle tradizionali divisioni in classi. Sono i precari, sono coloro che non hanno dei posti di lavoro a tempo determinato, che hanno una impossibilità appunto di guardare al di là di una prospettiva di breve termine e che nel sistema complessivo del lavoro faticano molto più che in passato a trovare una collocazione precisa. Ecco, questo problema è un problema appunto non solo italiano ed è un problema non solo economico, innanzitutto economico, perché la dimensione del lavoro dipende anche da scelte economiche oltre che da scelte normative, ma è un problema che sempre di più sta diventando un problema sociale, perché il precariato sposta in avanti per esempio le scelte di costituire una famiglia, sposta in avanti le scelte di dare una stabilità alla propria posizione sociale o anche alla propria collocazione nell'ambito delle città, nell'ambito delle regioni. Quindi siamo di fronte a un cambiamento profondo che richiede un diverso atteggiamento da parte dei giovani verso questa prospettiva, ma anche e soprattutto un diverso atteggiamento da parte di chi deve gestire le regole del mercato del lavoro e deve gestirle in maniera costruttiva, in maniera prospettica, in maniera da mettere d'accordo le esigenze di un'economia globale che ha esigenze diverse dal passato con le esigenze di una società, con le esigenze delle persone, che sono esigenze peraltro che non cambiano nel tempo e che restano sempre uguali perché costituiscono in fondo i diritti fondamentali delle persone. Quindi un libro di profondo interesse proprio in questa prospettiva, un libro edito dal Mulino, vi ricordo il titolo, di Guy Standing, Precari, la nuova classe esclusiva, l'edizione del Mulino, le pagine sono 300, il costo sono 19 euro. Grazie, l'appuntamento con Economia in Pagina è per settimana prossima, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione.